100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. I contratti di lavoro stabili continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Nei primi 10 mesi dell'anno abbiamo avuto un saldo positivo di 14.000 rapporti di lavoro stabili in più rispetto al 2015, spesso derivanti da trasformazioni di contratti a termine e di apprendistato. Sono le rilevazioni dell'osservatorio mensile dell'INPS che confermano la percezione di un mercato del lavoro che sta lentamente riprendendosi, sul quale, a dire il vero, arrivano mese dopo mese dati contrastanti, non facili da decifrare, e che spingono a ricordare quanto sia ancora lunga la strada per recuperare i moltissimi posti di lavoro persi, spazzati via durante la crisi di questi anni. Qualche buona notizia però arriva, come è per esempio l'aumento dei contratti di lavoro full time, a testimonianza di un recupero, anche in questo caso lento, degli orari di lavoro. Insomma, i numeri mostrano un mercato del lavoro più stabile, ma non va scordato che il contratto a tempo indeterminato, quello preferito dalle aziende in questa fase, beneficia di uno sconto contributivo molto significativo e gode anche della nuova flessibilità introdotta con il Jobs Act. Per contro, questo sistema, e la conferma invece è arrivata dai dati Istat del mese di ottobre, non sta creando nuova occupazione, almeno non ai ritmi che ci saremmo aspettati, e a ben vedere anche quel che accade ai contratti di apprendistato, che subiscono un tracollo di 43.000 unità, non è una gran bella notizia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Per certi aspetti sorprendente il dato sulla produzione industriale in ottobre comunicato dall'Istat. Sorprendente perché la crescita dello 0,5% rispetto al mese di settembre e quella del 2,9% rispetto a ottobre del 2014 è decisamente superiore alle aspettative. Ma è un dato sorprendente anche perché questo buon risultato arriva dopo alcuni mesi che avevano evidenziato un rallentamento della crescita della produzione. Va aggiunto che questa notizia positiva si combina oggi con il dato sull'andamento del mercato del lavoro, che nel terzo trimestre di quest'anno ha visto un leggero miglioramento, con disoccupati in calo e 247.000 posti di lavoro in più in un anno. Tornando alla produzione industriale, è comunque interessante analizzare i dati dell'Istat sui settori di attività economica, cosa che ci consente di capire quale sia l'intensità di questo andamento che ha spinto la produzione dell'industria a mettere a segno un aumento dell'1,1% nei primi 10 mesi del 2015. Gran parte di questa crescita in effetti è dovuta all'ottimo andamento della produzione di mezzi di trasporto, le automobili, e di prodotti petroliferi. Invece su base annua non va ancora così bene per altri settori. Sono in terreno negativo il tessile abbigliamento, l'alimentare o anche il legno. Questo per dire che la ripresa della produzione, che è sicuramente in atto, non ha ancora agganciato tutti i settori, neppure le eccellenze del Made in Italy. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.